the party, for sharing, to have a good time, you know? Get the fuck up. She's an angry young Arab woman. You are too passionate. Get the fuck off. I think you're fighting the wrong battle. Get the fuck off. Fuck off, off, off. Get the fuck off. We don't need to kill the vibe by talking about the world's misery, you know. Get the fuck off. My presence, our struggles, our presences, my words, my voice, my breath, my flesh and that of my peers, my body in motion, my bass, my snare, my kicks, my hits, my everything's about politics. Everything is about politics. Everything is about politics. Everything is about politics. What I carry in my chest is bigger than your waist. What I carry in my chest is bigger than your waist. What I carry. Ora 18.30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, oggi martedì 21 ottobre sta per iniziare una nuova puntata live di Likewise. E per la puntata 119 di Likewise, Donna Sonica e Pinclo e un ospite per un'oretta di musica assieme. Shufu take the shufu snanny. Don't take shit from nobody. Take your time to come, nanny. I've all my time to watch you lose it. Take your time, what's up, nanny? Ma che naios, we know we kill it. Get a wife, promoters, millions, gaslight, who the savior, who the savior, bitches, need us, need our bangers, yellow fakers, don't move your ass, salute the fans, Rajay. E tagliamo un po' la nostra sigla che avrete modo di ascoltare per tutta la stagione. Lei è Kumiya, il pezzo si intitola Ayao. Come sapete, appunto, Kumiya è una DJ marocchina francese, produttrice, musicista, insomma, che ci accompagnerà, appunto, come dicevo, per tutta la stagione, e poi avremo modo anche di raccontare un po' la sua storia meglio. E comunque, se la volete ascoltare tutta, la sigla sta nella prima puntata della scorsa settimana, dove l'abbiamo fatta ascoltare per intero. Trovate il podcast sul sito della radio ondalossa.info. E allora oggi, come dicevamo, diciamo nell'intro, nell'apertura, abbiamo un ospite qui con noi. Ciao Fred. Eccolo l'ospite. Ciao. Fred Montgomery, per tutta la puntata ci racconterà un po' del suo podcast, di cui è ideatrice, curatrice e conduttrice. Assolutamente. Diciamole le cose quando le facciamo. Che si chiama Tristezza, Sad Music Makes Me Happy, e anche di una costola di tristezza che si chiama Tristezza Mixtape. Esatto. Che insomma da un paio d'anni. Sì, da un paio d'anni. Che è, appunto, è nata questa costola, insomma questo altro progetto monografico di cui parleremo insieme in questa puntatina. Oltre ad accompagnarci nella prima puntata di questa dedicata alle cover, che si chiama Cover Me, insomma un gioco un po' di parole con questa espressione inglese che significa in realtà proteggimi, insomma distrai le persone in modo che possa fare intanto qualcos'altro, un gioco di parole, appunto, perché cercheremo di insieme a Fred questa volta, o da sole nelle prossime, di raccontarvi un po' di storie intorno a delle cover che ci hanno emozionato particolarmente. E allora, Fred, questo Tristezza, allora è un, diciamo, un podcast che è distribuito, che insomma esce per Radio Banda Larga, che è appunto una community web radio che ha sede, diciamo, che è attiva a Torino, Berlino e Barcellona, se non ricordo. Esatto. Male, e che insomma, come ci raccontavi nel fuori onda, tu la trasmissione la fai in un posto molto bellissimo, particolare. Un posto molto figo sulle sponde del Po, dentro il Parco del Valentino a Torino. E lo faccio dal 2017, in realtà il progetto esiste dal 2017 e da 5 anni invece lo faccio, ha preso la forma di programma radio, lo facciamo dal vivo e esce ogni mese, quindi è una sola puntata al mese. Adesso abbiamo cambiato l'orario, per cui non mi ricordo, faccio una gaffe, perché prima era non ti ricordi prima io. Era il secondo giovedì del mese, adesso mi hanno appena cambiato l'orario, per cui vi direi insomma una bugia, ma lo saprete. Anche noi abbiamo cambiato l'orario, sono le 18:30. brava, ottimo. E comunque lo saprete, lo sapete sulla nostra pagina di Likewise, metteremo il link dove potrete ascoltare il podcast sia in diretta che in podcast differita. Appunto, in differita, e quindi poi saprete anche a che ora seguire. A che ora sarà, ma ve lo dirò durante la puntata, non lo scopro. Ok, allora, come è venuta fuori questa idea del, diciamo, di tristezza, che insomma il titolo del podcast è esplicativo di quello che poi è un po' il tema che di cui parli. Esattamente. Allora, l'idea viene fuori nel 2017, perché ho conosciuto una ragazza, si chiama Lia Cechin, che ai tempi aveva uno studio, si chiama Open Studio, e lei voleva mettere a disposizione il suo studio per fare cose, quindi mi ha detto: Fred, se vuoi vieni, pensa a un'idea. E mi è subito venuta l'idea di creare un contenitore che potesse raccogliere, o meglio accogliere, tutti i brani che io negli anni di DJ set ho dovuto sempre tenere fuori, perché erano troppo tristi, facevano prendere male, non erano ballabili, non che io abbia mai fatto DJ set dance, però insomma era un posto sicuro in cui potersi in qualche modo crogiolare con la musica triste. Uno spazio protetto per la musica, esatto, triste, visto che questa è una parola che usiamo spesso. Esattamente. È interessante. È uno spazio protetto, è un contenitore, è un modo per rivalutare e diffondere la musica triste e darle una dignità. Per cui nasce Tristezza, ovviamente con un'accezione anche un po' spiritosa, nel senso non è sempre solo presa a male, ma la cosa che trovo interessante è che di tristezza, la tristezza, diciamo, può essere nel testo, oppure può essere nella storia della band, per esempio. A volte ci sono dei pezzi che apparentemente sono felici, di cui però il testo è tristissimo, oppure la band è felice, la musica è felice, è tutto felice, la cantante è morta sotto un camion, cioè, nel senso, spesso prova a raccontare una storia per far sì che poi i pezzi vengano in qualche modo attenzionati. La tristezza si nasconde ovunque, e in realtà, diciamo, mi veniva in mente, a proposito di pezzi che apparentemente sono allegri e invece poi nascondono dei testi abbastanza impegnativi, e che oggi ascoltavo uno dei podcast in cui hai fatto ascoltare Reina Tropical, che è una delle artiste che amiamo molto, no, anche qui a Likewise. Tristissima. Per esempio. Esatto, perché appunto lui, il DJ, è scomparso, e lei ha continuato insomma il progetto, sì, con lo stesso nome, però sì, insomma, in realtà la musica è molto ballabile, tra parentesi, esatto, insomma un po' più allegra, e sì, in effetti poi nasconde una storia pesantissima. Sì, e tra l'altro lei ha usato questo progetto per superare la morte di questo compagno, esatto, alla fine, per cui c'è tanto da raccontare ogni volta. E in realtà le vicinanze, anche se in realtà facciamo delle playlist piuttosto diverse in generale, ma ci sono molte cose che ci piacciono. Io ascoltavo, appunto, mi dipassavo un po' delle tue trasmissioni, Saint Vincent, cioè insomma una grande dedica, soprattutto, che era i concerti perduti, mi sa, no? Sì, i concerti che ne parlavi. Non l'ho mai visto, sì. Oppure una band, Ada Oda, che insomma, tra l'altro, insomma, recentemente la cantante ha annunciato che ha lasciato il gruppo, e quindi il gruppo, sì, si è sciolto, insomma, che era un'altra delle cose che ci accomunavano. Quindi ci sono molti ascolti vicini. Noi facciamo sentire un piccolo estratto di Tristezza, così facciamo venire voglia anche di andarlo a scoprire. Yes. You are listening to Radio Banda Larga, RBL.media. Siamo tornati, tornate a farvi ascoltare di nuovo un po' di musica triste in questa 24esima puntata di Tristezza, Sad Music Makes Me Happy, il programma in cui per un'ora possiamo rivendicare la nostra cara e amatissima musica triste. Abbiamo aperto questa puntata con un brano di Sufjan Stevens, che è suonato con il suo patrigno, e si chiama Lowell Brahms, il quale ha prodotto tanti dei dischi di Sufjan, soprattutto lo ha aiutato moltissimo, diciamo, in qualche modo a sfondare. E questo brano viene appunto dall'album, si chiama Aporia, ed è un album prettamente strumentale, un'opera strumentale suonata con Lowell Brahms, appunto. È interessante, questo pezzo l'ho trovato particolarmente bello e apre la puntata. Stiamo ascoltando Likewise, questa era un'incursione del podcast di Fred, così vi viene voglia anche voi di ascoltarlo. Vi metteremo sicuramente il link sul nostro podcast quando andrà in podcast pure Likewise. E questa cosa della musica triste comunque è molto carina, perché mi ha ricordato subito mia madre. Oh. Nel senso che mia madre mi diceva sempre... Ed è subito terapia, via. No, perché mia madre mi diceva sempre: ma perché ascolti questa musica triste tutto il tempo quando era adolescente? Guarda, io di questa cosa ho parlato durante una mia puntata, proprio perché ho rivangato i tempi in cui mia madre mi diceva: che palle sta musica, madonna, ma sempre sta lagna. Per esatto, cui bravissima, sì, abbiamo l'espressione è quella della lagna, esatto. Sì, sì, sì. Comunque ho scoperto nel frattempo, quando i nuovi orari di tristezza, che sono appunto ogni terzo mercoledì del mese dalle 19 alle 20. Va, non andiamo neanche in contrasto, quindi potete ascoltare Like Wise, e poi tristezza. E il giorno dopo, esatto. Tristezza, perfetto. Allora, entriamo nel vivo della puntata, se vi va, se siete d'accordo, perché insomma appunto Cover Me è, come dicevamo, come annunciavamo all'inizio, una selezione di cover che in qualche modo sono quelle che ci piacciono, nel senso che masticano e risputano i pezzi che hanno elaborato in qualche modo, dando qualcosa di diverso, che può essere una connotazione, un colore o anche un'interpretazione che aggiunge o stravolge quello che era il punto di partenza, insomma. Quest'oggi, visto che appunto Fred Montgomery è ospite della trasmissione, le abbiamo chiesto di scegliere tre pezzi da raccontarci, e quindi la prima parte della scaletta sarà autogestita. Allora, il primo pezzo che ha scelto oggi è un pezzo, devo dire, che mi era sfuggito in realtà in questa cover, che diciamo si lega a una storia molto interessante, molto particolare, che è quella di un artista a tutto tondo in qualche modo, anche se non ce lo si aspetta visto la vita che ha fatto, che si chiama Moondog. Vabbè, possiamo andare su quella, ma okay, se no andiamo a partire da Space Lady. Partiamo da Space Lady, sì, che in qualche modo poi è legata anche a Moondog, perché comunque i loro stili di vita, sì, erano molto simili. Molto, esatto. No, avevo portato come primo pezzo questo brano di un artista molto molto particolare che si chiama The Space Lady, Susan Dietrich, che sostanzialmente era figlia di due musicisti classici che speravano tanto che lei potesse seguire poi la carriera classica. Lei invece poi da adolescente si innamora dei Beatles, della musica alternativa, dei Jefferson Airplane e così via, e niente, impazzisce per quel tipo di musica, per cui va a trovare la sorella a San Francisco, vede la cultura alternativa, decide di andarsene dal paesello in cui stava. Siamo proprio negli anni 60, siamo negli anni 60, diciamo, 70. Negli anni giusti, esatto, per questo tipo di innamoramento. Esattamente. Anche decide di scappare, di andarsene, insomma, di trovare la sua fortuna, e va a San Francisco, prende un passaggio, incontra quello che sarà suo marito per 30 anni, che è un musicista che vuole fare carriera, eccetera eccetera, e non fosse che lui sostanzialmente rifugge dalla leva, dal servizio militare obbligatorio, e costringe questa donna a vivere per tutta la vita nascosta. Loro vivono anche in una caverna, addirittura bruciano i documenti, tagliano i ponti con tutti, e lui, siccome non poteva fare niente per procurare del cibo o dei soldi, lei viene costretta, cioè si vede costretta a portare i soldi a casa. Come lo fa? Lo fa prima facendo l'elemosina per 7 anni, e dopo cominciando a suonare l'accordion, cantando, eccetera eccetera, e ha successo, cioè ha un successo incredibile. E qua, da qua nasce The Space Lady, che infatti di cui abbiamo tra l'altro i dischi, perché viene poi messa in una compilation, viene insomma ritirata fuori, scoperta. Sì. Credo intorno agli anni 80, però, dopo in realtà un po'. nel 2000, se non sbaglio, 2. Ok, esatto. Quindi un po' di anni a stare per strada. Sì, sì, no, lei si è fatta veramente una vita abbastanza hardcore da fricchettona, però insomma, alla fine fa successo, lascia il tipo, il resto è storia. Per cui sì, ci possiamo ascoltare Major Tom, che è una cover di Peter Schilling. Peter Schilling è un altro personaggio interessante, tra l'altro, insomma, chi viene dalla Germania, io lo chiedevo alla mia compagna, che appunto è nata e cresciuta in Germania, in realtà è famosissimo in Germania, noi non sappiamo nulla, ma lui mi raccontava che faceva parte di tutta quella scena crowd pop, comunque insomma anche abbastanza interessante, no? Da un punto di vista dei testi, perché molti testi erano anche molto politicizzati, che ha avuto in realtà un grande successo in Germania, quindi è una cover insomma che ha un senso. Divertente. Annunciala tu. Sì, io o tu? Ok, noi. Direi che ci ascoltiamo Major Tom riarrangiata da The Space Lady. Systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Joke's Major Tom. The count goes on. 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Earth feels drifting more. Floating weightless, calling one, one, one, one, one. Earth feels drifting. E questa era la Casio, la voce, gli effetti di The Space Lady, Major Tom. È la prima cover scelta da Fred Montgomery, che oggi ci accompagna in questa puntata di Cover Me. Questa è Likewise e questa è Radio Onda Rossa. Allora, intanto, cioè, questo personaggio è veramente incredibile. Andatevela a cercare, perché sono certa che vi ha incuriosite. E potete trovare anche dei video di lei che suona, in particolare questo pezzo, perché credo che sia uno dei suoi pezzi delle sue hit, quindi insomma potete anche vederla con il suo elmetto da astronauta con la lucina rossa al centro. È veramente fantastica. Le ali, brava, c'è anche le ali, esatto. E quindi, come dicevamo, chiaramente Major Tom è il titolo del pezzo. Insomma, l'autore aveva scritto questo pezzo ispirato alla Space Oddity di David Bowie, e quindi insomma da lì è un po' un proseguimento della sua storia, del suo viaggio nello spazio non andato benissimissimo, che anche qui un po' di tristezza ci sta tutto, no? Allora, invece la seconda cover che hai scelto? Ma allora, intanto devo dire grazie per avermi fatto aprire questa nuova rubrica con un pezzo scelto da tristezza, perché sono super felice di essere qui con voi. E per il resto direi che rimaniamo in strada, perché il prossimo artista è anche lui un musicista di strada. Si chiama Moondog. È un personaggio veramente particolare. Vi consiglio di andare a cercare anche la sua storia, perché lui è un compositore americano rimasto cieco molto giovane, e è stato in qualche modo, si è trovato obbligato anche lui a vivere in strada e a fare della musica. Lui si è autoprodotto gli strumenti, gli abiti, andava diciamo in giro con questi abiti da vichingo, ed è stato un riferimento, un punto di riferimento per la Sixth Avenue a Manhattan. È stato poi notato dal direttore della New York Philharmonic e da Philip Glass, che gli hanno anche permesso Gianni e Iano. Motivo per il quale abbiamo delle registrazioni, perché poi loro lo hanno portato a registrare le sue composizioni. La cosa bella delle sue musiche è che ha questa struttura circolare ripetitiva, che in qualche modo è come un pensiero che gira sempre in testa, un sogno che si ripete, è molto ipnotico come stile. Anche un po' tipico dei cantastorie di strada. Esatto, sì. Poi lui è proprio una sorta anche quelli di storia orale in Sicilia, per esempio, che vanno a ripetere, dopo un po' ricominciano a ripetere la storia, perché quando le narri in maniera orale per far tenere il filo alle persone, fai questa cosa qui della ripetizione, le ripeti. Ma lui, lui diceva questa cosa del tempo. Snake Time, no? Che diceva che era appunto che si ripeteva, ma che non era mai, che non morirà mai in quattro quarti, come diceva lui, in sostanza. E quindi lui stesso diceva, siccome cercava di non utilizzare tempi ordinari o comunque insomma solite come quattro quarti, fondamentalmente appunto questa era una delle sue caratteristiche, quella su cui si concentrava tantissimo per quanto riguarda la parte ritmica dei suoi pezzi, che è molto importante. Sì, e il pezzo che ho scelto fa parte di una compilation in cui The Ghost Train Orchestra e i Kronos Quartet hanno rivisitato tutti dei suoi pezzi e hanno invitato Jonas Policewoman a cantare in uno di questi brani, e niente, io lo adoro, perché adoro Joan, il pezzo è meraviglioso, e vedrete che è ipnotico anche questo, ci sono delle voci, delle controvoci, dei battiti di mano, c'è una ritmica super interessante, i fiati che scoppiano a un certo punto, bellissimo. E allora ci ascoltiamo Why Spend a Dark Night With You, Jonas Policewoman. Why spend a dark night with you? What a fearful price to pay. Why spend a dark night with you? What a fearful price to pay. Other nights would be lonely dark ages for me. Why spend a dark night with you? What a pitiful price to pay. Other nights would be lonely dark ages for me. Why spend a dark night with you? What a pitiful price to pay. Other nights would be lonely dark ages for me. the dark eyes with you. What a fearful price to pay. Dark night with you. What a fearful price to pay. Price to pay. Other nights would be only dark ages for me. Why spend a dark night with you? What a fearful price to pay. Other nights would be only dark ages for me. Why spend a dark night with you? What a fearful price to pay. Other nights would be lonely dark ages for me. Why spend the dark night with you? What a fearful price to pay. La bellissima voce, la tecnica straordinaria di John as a Police Woman per questa interpretazione di Why Spend a Dark Night With You, cover di Moondog. Tra l'altro, siccome qui a Likewise vi ricordiamo sempre che esistono le edizioni fisiche della musica, questo vinile o il CD insomma di questo album include anche dei saggi su questo artista, interviste, insomma ci sono foto di studio, quindi un super lavoro, e sì, foto sì, di studio chiaramente della registrazione, che coinvolge anche altre figure della musica. Marissa Nadler per esempio, un'altra che fa un featuring in un altro pezzo, Rufus Wainwright, insomma molti artisti che hanno deciso, e artiste che hanno deciso di collaborare e hanno messo la loro voce o le altre cose in questo progetto molto bello e collaborativo. Quindi insomma esiste anche un vinile e un CD che sicuramente arricchirà la vostra collezione. Lo sapete che la musica vive di questo. Sono le 19, questa che state ascoltando è Likewise. Se volete chiamarci 0649 1750, non chiamateci quando stiamo parlando, lo sapete che non possiamo rispondere. Fatelo pure, ma nessuno cioè, lo potete vi risponderà. Fare, nessuno vi risponderà. Se volete scriverci invece potete farlo quando vi pare, likewise@landarossa.info, e se ci volete seguire c'è il nostro canale Telegram likewise_TRX. Tra l'altro, in sottofondo, prima di parlare appunto dell'altro progetto condotto, ideato e curato da Fred Montgomery, c'è All Is Loneliness in una versione di Janis Joplin. Anche questo è un pezzo di Moondog reinterpretato da Janis, e che diciamo ce la dice lunga anche rispetto a quanto fosse famoso e conosciuto certo, nell'epoca, e quanta gente si sentisse ispirata insomma anche dalla sua produzione, da quello anche proprio il modo di pensare alla musica. Allora torniamo a Fred e al progetto di Tristezza Mixtape. Mixtape, sì, c'è una, appunto, come diceva prima Donna, una costola del programma che si chiama appunto Mixtape, che è un progetto monografico su un artista che coinvolgo scrivendogli una bella email, cercando i contatti in qualsiasi modo e chiedendogli appunto di fare per Tristezza una playlist della sua musica triste preferita. E quindi come funziona questo programma, come funziona questa ora di musica insieme? Funziona appunto con un'introduzione sull'artista, io presento l'artista, ascoltiamo dei suoi brani, così conosciamo insieme chi è, e poi ascoltiamo i suoi gusti in fatto di musica triste. Ed è un progetto super che io, a cui tengo tantissimo, intanto perché mi permette di entrare in contatto con i miei artisti preferiti, che per quanto non siano nomi giganteschi, però sono persone che veramente si mettono in gioco, e poi io stessa scopro di più su di loro e scopro un sacco di musica, tra l'altro, perché magari non è detto che i miei ascolti coincidano con i loro. Per cui devo dire che sta avendo un riscontro molto positivo. Abbiamo avuto anche Daniela Pes che si è offerta, diciamo. Ma noi alla Quest invidiamo tantissimo, esatto, questa idea e questo lavoro, perché è bellissimo. Molto, noi veramente vi invitiamo ad ascoltarlo, ma soprattutto una cosa che mi diciamo piace anche Emily Wells, che insomma è un'artista Wells, che adoriamo, dire, sì. È stata ospite di Mixtape, ma insomma per esempio lo notavo soprattutto con Daniela Pes, il fatto che lei avesse messo un sacco di musica brasiliana, sì, nella sua, esatto, diciamo compilation di musica triste, che era abbastanza non prevedibile rispetto, no, a quello che poi il suono che lei cura e che ci propone. Sì, nel senso, lei comunque ha una formazione classica e quindi in qualche modo insomma classica a tutto tondo, sì, certo, di musica tradizionale anche, no? Lei comunque studia la musica tradizionale sarda, quindi ci sta che ascolti anche tanta, sì, musica tradizionale brasiliana. Per me è stata veramente una scoperta, perché tanti amici mi hanno sempre detto ascolta questo, ascolta l'altro, poi io per interesse per disinteresse non l'ho fatto, ma mi sono trovata costretta a scoprire della musica incredibile, per cui è stato un dono per me, secondo me un dono per gli ascoltatori, perché veramente non... sì, una sorpresa. Ma la musica lo è sempre in realtà, quindi è la cosa bella del curare delle trasmissioni come facciamo noi, insomma, di metterci del tempo, della passione e anche proprio l'idea di regalare degli ascolti a qualcun'altra, sì, che è l'unico motivo per cui lo faccio. Non sono i soldi, vero? Ah no, io pago per fare Tristezza, mi volevo dire, cioè pago la tessera associativa, non prendo un soldo. Ma e a proposito di soldi, così, lo sapete che Radio Onda Rossa richiede e basta perché non ha sponsor, non ha padrini, non ha padroni, non ha nessun finanziamento che non ci piace, e quindi vive non di aria ma della vostra generosità, che insomma è sempre importante, essenziale, direi. E quindi sapete che potete sostenere la radio in qualsiasi momento, andate sul sito ondarossa.info e trovate appunto molti modi in realtà per sostenere la radio, oltre a venire alle nostre iniziative e a sostenerci direttamente ai banchetti che facciamo nel modo che vi sembra più possibile per voi. Mi raccomando, che fra un po' arriva Scarceranda. Esatto. Non comprate le agende. Non le comprate, ce le abbiamo pronte, ce le abbiamo per voi. Terzo pezzo della tua selezione è un pezzo che è già passato da queste parti, quindi siamo ancora più felici, perché quindi no, questa, vabbè, cosa ci accomuna moltissimo, perché è un pezzo di un artista che adoriamo. Bello. Parlacene tu allora. Ma allora guarda, io l'ho scoperta per caso mentre ero a Brighton a mangiare non mi ricordo, vietnamita, ho sentito questo pezzo e col mio telefonino ogni volta vado a capire di chi è, mi sono veramente innamorata. Tutto il suo disco è veramente bellissimo, quindi ascoltatelo. E in questa occasione ho scelto appunto di condividere con voi questa cover di una band che io amo, che purtroppo appunto per motivi politici adesso è un po'... No, l'amiamo anche noi, sì, Radiohead, no, l'amiamo anche noi in questo momento, e in futuro, se le loro opinioni non riguardo la questione israeliana e l'oppressione del popolo palestinese non cambia, non diventa più, diciamo, più chiara e più precisa, preferiamo non farle ascoltare. Ecco, insomma, sappiamo che la loro produzione è bellissima, li amiamo, sappiamo che, insomma, hanno un pezzo del nostro cuore. Quindi, diciamo, saltiamo i reggi ed ascoltiamo un loro pezzo interpretato da Lihan Lahavas, che è una, appunto, musicista polistrumentista nata a Londra con madre di origini giamaicane e padre di origini greche. Sono anche loro entrambi musicisti e niente, lei anche ha tutti degli amici incredibili tipo Paloma Faith, Prince, ha suonato con Bon Iver. Alla fine, cioè, se hai questi amici non puoi che sfondare subito. Infatti lei è molto giovane e la sua musica si muove tra il soul e il jazz, e infatti questa interpretazione di White Fishes, che è il brano dei Radiohead, per me è incredibile, perché riesce a interpretare un pezzo che poi è pesante, esatto, con una leggerezza che in qualche modo lo rende ancora più pesante, cioè lo rende ancora ti fa entrare quel pezzo ancora più nel profondo, perché ti apre la porta lentamente, cioè ti accarezza, ti porta per mano alla fine negli abissi, infatti, no? È molto interessante questa cosa, perché poi l'interpretazione del testo di White Fishes è oscuro, diciamo, il testo potrebbe avere varie interpretazioni, esatto. Poi ne parliamo dopo il pezzo. Lihan Lahavas, White Fishes. Fishes. Questa era l'interpretazione di Lian Le Havas di With Fishes, che secondo me è un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Cioè, quando prendi un pezzo, lo mastichi, lo disputi come solo tu puoi fare, in qualche modo, perché veramente lei dà a questo pezzo un colore proprio suo personale. E come dicevi tu, è vero che il finale, in cui c'è questo hit and bottom and escape, che è, cioè, tipo tocca il fondo e vai via, che può essere una roba positiva, ma anche molto negativa, considerato tutto il resto, diciamo, dell'atmosfera che si è creata durante il pezzo. Lei proprio lo trascina con questo urlo meraviglioso. Sì, sì, sì, allora, mi veniva un stupido paragone, ma è come quei coltelli delle televendite che tagliano anche i pomodori. Cioè, veramente colpisce nel segno, non c'è che dire, ecco. E allora, noi abbiamo, sono le 19:15, quindi insomma abbiamo pochissimo tempo ancora da queste parti da passare con voi, però in realtà Likewise volevamo proporvi anche noi nella nostra selezione, dopo i tre pezzi scelti dalla nostra ospite di oggi, Fred Montgomery, di cui vi ricorderemo appunto le trasmissioni da seguire assolutamente in chiusura. Noi volevamo invece aprire la nostra selezione di cover con uno dei pezzi che sicuramente abbiamo più amato negli anni passati, e che è un pezzo di Le Tigre, che è appunto una band un po' storica, elettropunk, dance punk, come volete chiamarla, feminist pop, insomma qualsiasi definizione. Vabbè, va Tigre, bene, fondata nel 1998 da Kathleen Hanna, la straordinaria figura emblematica delle Bikini Kill e di tutto il Riot Movement, Johanna Faithman. All'inizio Sadie Ben era con loro e poi fu sostituita da J.D. Samson. Quando uscì questa cover che vi stiamo facendo ascoltare, J.D. Samson era già parte della band. Loro decidono di fare questa fantastica, secondo me, cover di una band degli anni 70, in realtà, che poi ha continuato la carriera e si è reinventata negli anni 80, negli anni 90, ha vinto dei Grammy, è stata una delle band che ha vinto tra le prime band nere, quattro sorelle nere a vincere Grammy importanti. Loro si chiamavano le Point Sisters, e il pezzo scelto dalle Tigre da rifare è I'm So Excited. E questa era Little Tigre con I'm So Excited, cover del Pointer Sisters. È partito così. E, insomma, pezzo che in realtà è allegro. E per definizione allegro, I'm So Excited per una volta non nasconde una cosa triste dietro, ma in realtà, appunto, tra l'altro il video delle Pointer Sisters era diventato molto famoso perché c'erano loro che si preparavano per uscire e vanno a ballare in discoteca, quindi è proprio tutta questa eccitazione, no, del chissà cosa è successo dopo, quello, magari è andata male, dovremmo chiederlo. Insomma, tutta l'idea ed è molto divertente questa idea, insomma, di che poi a volte la parte, diciamo, pre di qualcosa, no, cioè l'eccitazione dello stare perché per fare qualcosa, esatto. E se poi te ne penti, vabbè, allora possiamo fare questo compromesso, ci sentiamo I'm So Excited prima, perché prima. Sappiamo che dopo ci sarà non la sola, non si sa mai, esatto. Perché non sai mai come va a finire, più che altro. E per chiudere questa puntata, insomma, dopo ci faremo i saluti e ricorderemo i nostri riferimenti, abbiamo scelto un pezzo invece, questo triste. Giusto, ci sta, cioè, proprio il titolo già triste, esatto, cioè è proprio quello. Poi ne parleremo un pochino di quello che è il testo di questa canzone, di quello che racconta. La band che ha scritto questo pezzo è la band Califone, una band sperimentale statunitense che ormai ha non so quanti anni all'attivo, nasce nella seconda metà degli anni 90, quindi insomma ruota intorno alla figura di Tim Rutili e con tante artiste e artisti che girano intorno e che suonano, lo accompagnano nelle varie avventure musicali. Io devo dire che insomma amo molto la musica di Califone e un pezzo in particolare è stato rifatto poco fa da una band invece che è passata anche con altre cose qui a Like Wise, loro si chiamano Silvia Nesso e ci andiamo ad ascoltare Funeral Singers. All my friends are weeds and rain. Allora, Sylvan Esso, un duo statunitense che abbiamo già passato da queste parti. Loro sono Amelia Meath, che tra l'altro abbiamo sentito anche con un'altra band, non so se vi ricordate, trio a cappella che si chiama Mountain Men, che sono passate in una delle nostre scalette. Claudia è l'unica che potrebbe saperlo, ma adesso non ti viene in mente. E insomma, in questa cover che, per la quale collaborano con un'altra band che mi devo ricordare, sì, Collection of Colonies of Bees, fanno questa cover secondo me molto bella. All My Friends Are Funeral Singers, dice il brano, cioè tutto questo testo, insomma, di, come posso dire, che ci ricorda quanto le cose sono passeggere, temporanee, quanto sono a volte ci sfiorano e manco ce ne accorgiamo e sono già andate. Che bella triste, malinconica, a volte può essere anche un sentimento bello questo, no? Nel senso che ci fa apprezzare quello che abbiamo. Guarda, sfondi una porta aperta, cioè per me è tipo il mio pane quotidiano, e io adesso sono con questa mia amica Eli in casa, stiamo facendo questa bellissima convivenza di un mese e le sto propinando i miei pezzi tristi preferiti, dice, ogni volta mi viene la pelle d'oca, e è indescrivibile per me, ovviamente è fondamentale, per cui sì. E allora la trasmissione, la 119esima puntata di Likewise, chiunque ci stia chiamando in questo momento lo faccia fra due minuti. Vogliamo prendere in diretta no, non lo facciamo, è troppo difficile fare questa cosa, no, nel senso non sappiamo chi sei, quindi magari ecco, smadonni. Pronto che non pizza? È il momento giusto, esatto. In ogni caso la puntata 119 di Likewise si va a concludere, noi ci apprestiamo a far partire la sigla, anzi la facciamo partire proprio perché ci piace così, e salutiamo Fred Montgomery, che è stata nostra ospite quest'oggi, ricordando che il suo programma principale, anzi ricordalo tu, fai tu l'appuntamento, così insomma ho già dimenticato quando è che, no, non è vero, terzo il mio programma del terzo, sì, appunto lo trovate su www.rbl.media ogni terzo mercoledì del mese dalle 19 alle 20. E invece questo progetto in realtà si alterna con il mixtape, quindi una volta sentirete la mia selezione e una volta quello dell'artista, diciamo, coinvolto. La prossima artista sarà Camilla Sparks, dei Peter Kernel, che ci ha condiviso una bellissima playlist di musica triste, quindi vi aspetto, che tra l'altro sarà anche in tour, alcune date che avevamo annunciato la scorsa settimana, credo tra ottobre e novembre, in un paio di due o tre date in Italia, quindi avrete anche occasione, informatevi, di andarla a vedere live, che è una delle cose più importanti. A proposito di live, cioè c'è qualche live che ci vuoi consigliare che sta arrivando o che avremmo dovuto vedere, visto che insomma era un po' anche un tema di cui, no, non ti viene in mente niente? Guarda, no, mi trovi in questo momento sprovvista di memoria, la memoria è piena. La memoria è piena, è una delle cose che ci stiamo dicendo da un po' in questa, no, di live, di andare a vedere, che magari ci voleva consigliare qualche live, insomma, così al volo. Noi invece vi ricordiamo una cosa che sta per cominciare, che comincerà domani, no, oggi in realtà, qui a Roma, ma che in realtà gira in tutta Italia, quindi andate a cercare, si chiama Nazra Film Festival, potete cercarla sul web e trovate diciamo il tour di questa iniziativa. Il Nazra Palestine Short Film Festival è un progetto culturale indipendente che è nato nel 2017 e è dedicato a raccontare la Palestina attraverso il cinema. C'è appunto un festival concorso itinerante qui a Roma dal 21 al 24, ospitato in diverse sale dell'Università Roma 3, quindi insomma andate a cercare le proiezioni, sono molto molto belle. E poi ripeto, c'è sul sito c'è scritto il tour, e quindi potete andare a cercare le altre tappe che faranno in giro per l'Italia. Abbiamo detto tutto, possiamo dire che in corso alla fermata metro Euro Palo Sport di Roma c'è la fiera alla nuvola del cyber tech, e quindi no alla complicità con il genocidio Zada, c'era la contestazione, c'era un corteo, comunque una manifestazione lì, e abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento intorno alle 18:30, quando le persone stavano più o meno arrivando nel luogo. Adesso non sappiamo che situazione c'era chi ho parlato con chi ci cercava, sì, e voleva sapere un qualcosa in più. In realtà non sappiamo molto di più, anzi, se qualcuno che è alla manifestazione sta per caso con un'ora l'orecchio sulla radio, se vuole poi chiamare. Comunque andiamo via noi, ma alle 20:15 c'è Note Cose Città, quindi in qualche modo alle 20, alle 20, alle 20. Mm-hmm. Anche loro hanno anticipato e quindi magari ci può dare qualche aggiornamento. È il momento di salutarci? È il momento, peccato. Grazie, vi volevo ringraziare infatti Donna e Claudia, grazie per avermi ospitata e grazie per aver insomma diffuso il verbo della musica triste. Ora lo sai, c'è spazio per te. Grazie. Likewise, grazie. Quando arrivi a Roma vieni a raccontare un po' dei tuoi ascolti. Ci vediamo settimana prossima? Alla settimana prossima. Ciao.